parte che sembra ieri davvero, ricordando certe, no? Certe falcate, questa tua falcata a tutto campo, maglia granata, maglia azzurra. E invece sto tempo passa. Prima parlavamo del compleanno, sempre oggi, 18 gennaio, non è una brutta data per centrocampisti di talento. Parlavamo dei 40 anni di Guardiola, quindi, e lui è del 71, tu nel 71, mi pare, se ricordo bene, che dal vivaio del Toro, dove eri cresciuto, andasti in prestito a Novara. Sì, sì, ricordi benissimo. Vedi? No, ero lì e ho avuto una grande scuola di vita, devo dire, perché ho trovato un ambiente di grandi professionisti, ecco, ma più che professionisti, un ambiente umano, ecco, con cominciare dall'allenatore, dal presidente all'allenatore, a tutti i giocatori. Devo dire che è stata la squadra, la società che mi ha portato per mano nel mondo professionistico. Senti, sbaglio o l'allenatore di allora, forse sbaglio, ma non era Carletto Parola? Sì, esatto, hai detto benissimo. Tu pensa che io ero in pensione dove stava anche Carletto Parola, perché abitando a Torino lui faceva spesso avanti e indietro, poi aveva bisogno di un punto d'appoggio, mentre io invece ragazzino uscito dalle giovani del Toro avevo bisogno di un posto e ero in pensione e mangiavo a tavola con lui e con un altro grandissimo personaggio che era Robert Holthoff, grandissimo pattinatore del Novara Hockey, che faceva la Coppa dei Campioni. Però Carlo Parola, un'icona della Juventus. Infatti lui mi voleva poi anche negli anni successivi, quando era andato alla Juve. Però tanto spingeva per portarmi alla Juve, ma sai, però, in quei periodi non era molto facile poter cambiare.